canale 7 PMR, chi è l'ascolto? Canale 7 PMR, chi è l'ascolto? Canale 7 PMR, canale 7 PMR, chi è l'ascolto? Canale 7 PMR, chi è in ascolto, cambio? Canale 7 PMR, chi è in ascolto, cambio? Marco! Attenzione, doppio room, se mi ascolti, 1-2-3-4-5. Va benissimo Marco, mi ascolti? Marco, mi ascolti, guarda, 1-2-3, 1-2-3. Aspetta che, prova, 1-2-3. Caspita, io arrivo sparato, eppure sono solo con... Sì, io già ti sento bene, però va. Attenzione, canale 7 PMR, canale 7 PMR per un controllo radio. Chi è l'ascolto? Tu già arrivi. Tu vai bene. So c'hai che sei disperato stasera, cos'è che c'hai? Claudio, grazie a Dio sei entrato tu. No, niente, sono su un terrazzo, sto testando un'antenna. Un'antenna PMR, no? Mi serviva un controllo disperato. Gianni mi sente, però non arriva qua, zero. Forse c'è problema al finale. Tu bene mi senti? Sono ai minimi sindacali qua. Dipende da quante volte stai andando. 4. Vedi un po' 1-2-3, centro del tetto. Ma sei col portatile, no? No, antenna 2x5 ottavi, tipo X30. 5-9 così, sì. Ehi, poi naturalmente se la sposto di poco sicuramente guadagna un po' più, un po' meno, dipende dalla posizione. Va bene, dai, poi ti mando le foto, così ti fai un'idea di che cos'è. Grazie al controllo, Claudio, sentiamo, dai. Ehi, cos'è, cosa non è? Va bene. A dopo, se coincide. Ciao. Ehi, ciao, grazie. Integrazione bolla dell'Algida. Cosa c'è l'integrazione? Quale integrazione? C'è uno sta vendendo gelati qua, integrazione dell'Algida. Ancora non ho capito che queste frequenze sono assegnate ai radioamatori. Non capisco come faccia ancora questa gente a stare con questi portatili. Davvero? Ora. Marco, ci sei, cambio. Oh, chi è? Ora, c'è nessuno che mi ascolta. Non ho capito nulla. Ciucucciù. Ehi! Natalino, mi ascolti? Attenzione, Natalino! Attenzione, signor Marchisio! Cosa ti è successo? Buonasera! Oh, aspetta che andiamo! Che aspettina! Aspetta, c'è un manzano a Baidenne ha già avuto quello preciso, quello che ho io, del Polmar. Aspetta, poco guscia, 2,89. Poi a Baidenne l'ha già visto un altro, con lo stesso prezzo, però ho fatto molto più tranquillo, più bello e più moderno. Poi ha già avuto in coso una a Jesu che fa AM, FM e poi c'ha la USB, LSB e V €250. Ma è grosso burro. Mi pare che sia come te che si fa coso, Antonello. Quello da coso. Quello che ha detto da 1 a 30 MHz. Lo compro io. Sicuro? Buonasera. No, è quello lì che ha detto delle cose, che dei cinesi ha detto che... Ah, no. E adesso che andava perché è una marca buona. Ehi, buonasera signor Bacchisi, buonasera signor Torre. E lui, per carità, cosa ne facciamo questi apparecchi adesso? Cosa ne facciamo, Bacchisi? Cazzo. Io ne ho due nuovi dentro la scatola e non riesco a svecchiarli. E chi li compra? Nessuno, per carità. Io ho il 5005 AM, FM, SSB, USB e CW. Cazzo, per €130, nuovo il macchino, nuovo. Ma non ne vuole nessuno, per carità. Tu hai un affare. Io sono nel voto. Non basta che ci rivaggio. Cazzo, me ne vuoi aggiungere altri? No, non ne erano più di un anno. Infatti, cosa facciamo? Io l'ho accatastato lì. Tanto a praticarsi non si praticheggia. Dica con lui ci da voi, me lo do garantito perché è nuovo. Lo so, Giomai, ma io non me ne faccio nulla. Da viaggio io apparecchi, va. Quindi non mi servono. Per carità. Ma chi? A tenere a caldo oggi in campagna. Ma siete sopramodulati. Sembra oggi immaginata, Ma chi a tenere a caldo oggi in campagna? Signor Bacchi, ti ha detto se ce n'era caldo, a che vi siete durati da sopramodularvi. A venire a galla in campagna, ha detto Gio Maria. Andiamo. Oh, è basso, non lo sento, guarda, Bacchi. Poco fa lo sentivo tu. Ma adesso non lo sento per niente. Buonasera, Ami. Adesso ti ho sentito, buonasera anche a lei. Buonasera Gio Mari, buonasera a tutti. Avanti signor Bacchi. Ma mi senti Gio Mari? Ah? Ma mi senti? Sì che ti sento, io ho voglia. Facciamo non mi senti, visto, boh. Ho diventato sordo, ho diventato ricco. Boh, a Bacchi che lo sento, boh. Poco fa lo sentivo bene, adesso non sento nulla. Bacchi! Madonna Peppa, gatto, Bacchi. Ti sei saltato spostato, perché sennò prima ti sentivo benissimo. Vero tu? No, già sta arrivando forte a me. Oh, forse a te arriva basso, arriva da quella zona lì. Che gogomino, c'è un gogomino dietro, forse anche per quello, va. Adesso ti ho sentito bene, Bacchi. Su gli occhi. Vabbè. Oggi ha fatto caldo comunque, bella giornata, bella. Sì, ti ascolto Bacchi, sì, certo che ti ascolto. A me è 5:30, dai, 4, 5:30. No, già vi ascolto tutti bene, è a Torre che sento basso. Io devo mettere, che cosa, mi ammazza appena, non ti grigli al sassaino. A Torre arriva basso, ammazza. Chi arriva basso, Luca? Cosa, tu? Chi arriva basso? Tu? E io ti arrivo basso. Beh, hai se te pongo un foglio. Prendo un foglio di giornalista, ripeti. No, mi arrivate forti che... Luca, è tutto arrivato alla fondo scala, gatta. Ma chi ho due tacchetti, sì. Si accende, so. Giovanni, anche tu sei a fondo scala, eh. Anche tu. Vabbè, io sono dalla parte di casa tua, comunque, sempre qua, ma dalla parte del bello, dai. L'importanza che esca bene, vediamo un po', signor Bacchiglio, come l'arrivo io? Mi assento, arrivo subito. Ma arrivate bene, adesso è arrivato anche Bacchiglio, bene, dai. Ma è colpa mia, però, perché sono gogomino, forse è per quello che arrivo al basso. Però adesso lo senti abbastanza bene, per cui... Tranquille, avanti, signor Torre! Ehi, già andiamo, andiamo. andiamo bene, vabbè. Piano piano già ci arriviamo. Mamma la gara! andiamo bene. Uiuia. Allora, ci siamo a due passi da uno all'altro, per forza ci sentiamo. Se sento giù non mi sente più nessuno, vero Bacchì? Ah no, non può essere. Certo, non ha giudicato nulla. A meno che non ne sia varata l'antenna, ma ha giudicato stasera che vera ancora. Ah boh, non lo so, non ha giudicato nulla io. Così è, così rimane. Oh, io te lo Bacchì. Mi fa male tutti. Tutta la schiena mi fa male, Ora, tu stai ricoccato oggi, per carità. Ma sono sceso ieri, ci sono sceso. Ho fatto un po' di aranci, mi sono fatto, boh. Mi fanno tanti terra che su di lì, ragazzi. Evidentemente ho fatto qualche sforzo e mi fa male tutta la schiena. Però, non ce l'ho sceso io, tutta dolori, ma... E noi raddoppiamo e tiriamo a faccia la bella meglio. Avanti lui. Luca, quello sta mangiando la pasta in forno che ci è rimasta da pranzo. Facciamolo mangiare che deve crescere lui ancora. Avanti tu. Ui, caspittina. Bubu. Luca, pure entrani voi. Oh, vabbè, si è fondo scala a te. Però Bacchì si è rimasto strano. E sei due passi da lui, gatta. No, io ma chi se lo sento, insomma, bene, non bene, perfetto, però lo sento benissimo, dai. E tu arrivi bene, minotto. Qua sei a fondo scala. Non lo so io. Signor Bacchì, cosa mi stai dicendo? Devi orientare ancora di più l'antenna a questa parte. No, Bacchì, fa una cosa. Se in caso le deco ce la metti ancora più in alto, sta appena più in alto. Che se venda, perché se no che t'acca fiotti, no? Tengo preso Gian Marie. Ehi, come mi senti oggi sto che ho cambiato apparecchietto? Forte e chiaro, la radio è chiarissima. Cocomino sono mi, dietro però che vuol dire che già sta andando? Da un bel che non lo toccavo, No, già stai arrivando bene, stai arrivando. Meglio che si fa piacere, va. Aspettiamo allora Bacchiglio se riusciamo a sentirlo più perfetto, Il problema è l'antenna, ragazzi. Se l'antenna è su, più su è più bene funziona, se no... E da ragione. Infatti, più su è l'antenna e più bene esce. Allora è così, infatti. Esattamente. Non c'è la posizione giusta, la testa dovrebbe arrivare benissimo. Perché siete vicini. Però vabbè c'è il palazzo davanti, però nonostante che c'è quel palazzo oggi lo sento bene. Non è come gli altri certi giorni, capito? No, lo sento perfetto, vai. Infatti, è così. Bisogna fare così, bisogna fare. Metterla appena più in alto e vedere. Buonasera. Buonasera anche a lì. Ciao dottore, ciao Gian Maria, ti grazie amici, dai, Gianni. E così questa frequenza è un po' strana, dai, come sono ostacoli, non si sente più nulla. Infatti, se non c'hai antenna buona, ci sono parecchi ostacoli. Aspetta, Gian Marie, ma lo ascolti a Gianni? A chi? A Gianni. Ma lo che gliela faccio, vediamo un po'. Gian Marie, non mi ascolti, buonasera. A tratti ti sento, c'è col gombino comunque, a parte dietro. Boh, aspetta che mi sposto, vediamo un po'. E anche io così. Io già ti sento bene adesso, ho trovato il punto giusto. Aspetta, dottore, Ma chi? Stai con un rumore dietro, ti porti? Io non sono scivolo, io sono uguale. Però è strano che più lontano magari arrivi bene, più vicino non ti sento. Aspetta che sta facendo le prove, Bacchisio. Gianmarì, rientrato sì. Ok. Adesso più bene, so più forte sono tu. Sì. Ah, vabbè, sei sempre un attessi. Boh. Esercizio. Gianni, sì, adesso mi senti bene, vado proprio da cambiare posizione, guarda come mi sento. E adesso già ti sento, poco a poco, però ti sento. Comunque, buonasera. Buonasera, grazie da te amici, dai, fai girare, non so chi ti sia. Dovrebbe essere Bacchisio, vediamo un po', Bacchisio ancora sta terminando i lavori, avanti signor Torre. Cosa racconti oggi? Cosa hai combinato? Non sapevo che hai combinato, come ti chiesto da rimane? Come ti rimane su Gugi? Andiamo bene. Si prende Gianni! È stato un pensionato, è così. Non sa cosa fa. Ah, il doppio RU. Ah, è manicomio. È vero. Stavo cercando, ho detto, va, Luca non ve ancora. No, diciamo che facciamo un po' di mal di testa, un po', cazzo, me la compendo un capo. E allora, ho resistito anche troppo, mi sono preso una bustina di U, che mi è passato. Sono un po' stordito. Te l'ha alleggerito come ha fatto con me, e oggi lo stesso io l'ho preso per i dolori. Cosa già? Aspetta, ma chi cosa già? E anche io l'ho preso, Luca, che era dolori oggi, e l'ho preso. Macchi, ma tu a Gianni non lo senti? Io lo sento frusciato. A me mi arrivati tutti bene. Gio Maria, che si è cambiato, è sempre lo stesso. Non cambia la figura, è sempre forte. Cosa sono forte? Così hai detto lui. Non ho cambiato niente da poco fa, Diciamo che questa radio qua è più squillante, sì, poco a poco è più squillante, ma alla fine è sempre uguale. Poca roba cambia, ma poca... Il segnale è sempre lo stesso. Di più non vai. L'importante è che si senta bene, quello che conta. Ma dico una cosa, ma il canale 5 alla TV, lo vedete voi? Qua non funzionano parecchi canali, boh! Qua la risintonizzazione, Gio Marì. L'hanno detto, di rifare la ricerca dei canali, vedrai che si rimettono a posto. Non è così, Luca, se non si rimette a posto ci vuole del colore. Ma stai scherzando già, l'hanno detto, ancora non c'è del colore, non ci vuole del colore. È successo anche a casa di mamma, a me in cameretta no. Ho acceso c'era canale 5, ma non che me l'hanno levato adesso, non lo so. Stasera magari, la Marina li ho fatti in camera da letto no, e in soggiorno sì, sicuramente anche in cucina da fare. No, vuole risintonizzato tutto, li ho messi tutti a posto io, me li ho messi, sintonizzato tutto quanto, tutto da capo. No, l'ho fatto, in sala è andato bene, in cucina, quello di cucina non prende, anche dopo che l'ho sintonizzato, ho messo la sintonia automatica. Allora, quello di cucina, portatelo in sala e lo fai lì, lo fai, perché non è in tutti i posti che lo fa. Capito, Gianni, devi praticamente, se ti dà Rai 1, Rai 2, Rai 3, grazie, il canale devi impostare manualmente. Ho sintonizzato sempre lì, io, Tore. E questa volta anche facendolo di tanti canali sintonizza tranne quelli Mediaset. E fallo manualmente allora, metti quelli primo, secondo e terzo canale e tutti gli altri li fai in manuale. Fatto, fino a stamattina stava funzionando tutto bene, sempre. Ho visto sempre che funzionano bene questi televisori. Adesso, da stasera. Manca un bel canale, capito? Strano, E non questa che c'ho davanti qua. Anche gli altri sono così. Ne ho tre, quattro. Tutte e quattro sono così. Sì, perché si è cancellato tutto. Bisogna risintonizzare tutto quanto. E ha giovato tutte e cinque, l'ha giovato. Cinque un aggio e cinque un aggiovato. Li ho tutti risintonizzati. Hanno cambiato le frequenze, Gio Maria. Ha cambiato gli altri, cazzo. Allora è per quello. E allora bisogna rimemorizzarlo di nuovo, dai. Allora farò, dai. Vi chiedo un po' di su spazio e dopo rientro, ok? Riprendi tu. Sì, ok, Gio Maria, io faccio così. Andate, signor Bacchi. Ma chi è? No, che ho detto al signor Bacchisio di venire avanti. Ah, io ti sentivo anche poco fa, mi. Io ti sento bene. Gianni non lo so se ti sente. Gianni, come l'ascolti a Bacchisio? Prova a venire avanti, Bacchisio. Io ti ascolto, dai. Non sei ne bruciato né nulla. Non sei fortissimo, ma ti ascolto. Sì, signor Bacchi, bisogna fare così, bisogna fare. Purtroppo, cosa vuoi fare? Luca! Luca deve essere andato a mangiare. Andiamo. No già. Sempre maniere che c'è Luca. Che cosa vuoi fare? Pizzino, eh? È un capo di fuma. Signor Bacchi. No, nulla da fare, ancora non è entrato. Aspetta che lo provo a chiamare. Attenzione, signor Marino! Devi dare sicuro un input. Se non vi rispondo vuol dire che sto facendo roba, capito? Stavo, siccome c'è il telecomando difettoso in cucina, no? E stavo impostando per fare la ricerca automatica. Adesso sta facendo la ricerca di nuovo, dai, quello di cucina. Qua ne abbiamo tre. Gli altri, quello di camera da letto è a posto, non c'è bisogno di fare niente. Invece quello di cucina, di soggiorno, sì. Luca, io i miei, uno l'ho sintonizzato subito, l'altro lo sintonizza su RT Mediaset. E mi hanno detto che ci vuole il decoder, se no non va. Ma la cosa si disegni già, ma c'è scritto già. Suete. Sicuramente tu e Bacchisio non vi sentite perché mi state sovramodulando di continuo già. Adesso io già lo sento a volte. Parlate uno sopra l'altro, non si capisce niente. Cos'hai detto già? Ho detto che ho fatto la ricerca automatica io, mi ha cercato tutti i canali e non mi ha messo quelli Fininvest. C'è canale 5, Italia 1, eccetera, eccetera, rete 4. Già, non ce la fa, deve essere con l'altro filo, non ce la fa in quella fase lì. Portatelo dove è sintonizzato l'altro, quello di sala. Prova lì a sintonizzarli e poi provi in cucina se si vede. Magari non è HD già, non te li fa memorizzare. Gli altri me li fa memorizzare, quello lì solo non mi fa memorizzare, Luca. Perché sono in HD. Perché mi ci metto di balle? Perché devono cambiare sempre, ho capito. Poi avere già da poco, tanto per farti spendere i soldi a comprare del cover. Ascolta già, ma tu c'hai la linea a casa, la fibra ottica? Per che cosa? Sì, c'ho la fibra ottica. Ti hanno messo qualcosa a casa? Perché devono venire sabato da me? No, mi hanno mandato solo il decoder e basta, per il modem. Perché volevano, mi hanno chiesto se c'era il contattore vicino e in più, adesso non mi ricordo. E comunque vengono sabato mattina piazzandola, ma è meglio già. Ma la fibra ottica questa che hanno piazzato adesso, io ho quella di Vodafone, non è di quella originale che stanno piazzando adesso. Sì, ma va bene, viaggi bene. Sì, è veloce anche. Vabbè, sabato vengono, vabbè. Avanti, Tore, riprendi. Ma quale hai preso? Quella di Vodafone tu? No, io c'ho Infostrada da qualche anno, 8 anni, sa 10 anni, No, conviene quella che stanno mettendo adesso della Telecom, che va bene. Che di mira, non fa vedere di Telecom, che è tutta una vita dura. Non ci credete che ancora la fibra non ce l'abbiamo collegata. Non vi credete che la fibra deve andare a 1000, deve andare, no a me pure anni biglietti mini di là in dibatta. E poi mi stava andando a 64 megabyte, mi sta andando, che dice che è velocissima anche a Lugu, in nessun luogo te ne vorranno di là così. A volte manca, però se a 1000 non deve mancare per niente, non è compreso, che loro stanno giocando così, ti fanno pagare un montone di denaro e non c'è nulla ancora, non è compreso che non c'è nulla di fibra. Gli impianti li stanno facendo perché sotto casa le fasciature. Eia, ancora non sono collegati, sino a che non li collegano tutti quanti, non l'aumentano loro a 1000, ecco cos'è. E stanno prendendo in giro la gente. Non lo so, io so solo che sono... Sì. Ah, io invece ci sono, io ho telefonato, mi sono attaccato con quelli della team. Ho detto, ma mi state prendendo per il culo o cosa state facendo? Ma avete rotto le scatole, io sto pagando tanti soldi e fibra mi sta andando sempre a 64 megabyte. Come si spiega questa cosa? Allora non ce l'ha la fibra, mi ha detto. Cioè non ce n'è, Sassari, non ce n'è collegata ancora. Ancora non avete capito che non c'è nulla collegato qua. E mi hanno detto di dire, allora gli ritorniamo in sud, gli torniamo, di quelle che se gli abbiamo preso in più. Sì, ma siete 3 anni così, mi si dipende bagombe di là. Sì, che me li sotturrenni. A piano piano me li sotturrenni. Hai compreso? Non te li torrano in tutta un'ora, no. Piano piano te li torrano. Beh, ma pagate la curva. A pagare ogni mese devi pagare un'ora. Ah, ma me l'hanno abbassato. Allora, prima ne pagavo 45, ora ne pago 30. Ma sono tutti voti vecchi, bacalizzai. Vi fate prendere in giro, che dice che con la fibra è veloce. Guardate nel computer, nel portatile. Il portatile, guardate. Che vi dà la cosa, vi dà. A vedere quanto c'è, 84, 664. Più di 100 non vi dà, il massimo è 84, 80-84, non di più. Buonasera signor Marino, vabbè cosa siete, tutti gaggiudi? Ripreso Bacchi. Ma Marino non l'ho sentito, come mai? Ma che basso, boh, signor Marino, boh, all'anno Rosogu, ha detto buonasera e boh. Dove entro nella lampada l'antenna, devo essere. State soprammodolando uno con l'altro. Facciamo così. Riprenda signor Bacchi. Ma non intendo manco io. Aspetta a vedere. Attenzione signor Marino. Sì, c'è una base di voci. Buonasera a tutti, sto giocando. Lasciatemi giocare. Tore, ti sto preparando con la bambola gonfiabile che mi hai ordinato. Sta asciugando e domani mattina te la porto. Rimango in ascolto, 2 minuti dopo entro, vai. Poi piegami che sta cosa è. E vabbè, ti prendi già. E avara gentese, ciao Marino, mi hai sentito, dai. Avara gentese, ma poco fa non sentivo Manuta. Luca! Ma chi quando lo chiami non intende mai. Andate. Ti prenda signor Bacchi. Certo che l'ascolto, sono Bacchiso, buonasera. Ciao Bacchiso, ciao Tore, ciao Gianni, ciao Luca, ciao anche a Gio Maria, se l'ascolto anche un po' male. E poi buonasera a tutti, dai, avanti Bacchi. Luca c'ha una focaccia in bocca e sta mangiando, avanti to. Sì, allora spiegami che c'è cosa che mi ridizzeni, che hai ordinato, che fene è cosa. Ho detto scusa che ero un po' distratto. Ho detto questa cosa che hai ordinato, cosa è? Ordinato, la sto preparando per te. Ti sto preparando una bamba gonfiabile. Me l'ha prenotata anche Gianni, mi ha detto farla bionda, che Tore piace bionda, vero già? Ah, prendila in quel paese dove non tocca sole. Catta, ma devi fare, catta, ma non lo so qui. Ma mi devi far arrabbiare stasera. Oggi mi ha avuto me. No, fiorellino, non fare così, non fare monello. Avanti Gianni. Sì. Senti, dai, non lo ritrovi di più nulla. Ah, che sta scherzando. Capito, dottore, ha detto ok Gianni, Gianni è con te, vedi così. Avanti, Luca. Di bambola gonfiabile, e invece dopo che l'hanno entrata adesso è stufati. E l'hanno fatta, l'hanno messa seduta sotto un muretto, tutte le macchine che passavano si fermavano a guardare. Non ho capito, vi siete stato musato insieme a Luca. Qualcosa hai detto, ma chi scusa, Non lo so, adesso controllo, mi sono arrivati tutti i messaggi adesso. Sì, mi è già arrivato, io. Tre ne sono arrivate, ma chi? Tre. Per meglio dire, magari ce li avevano ma non li hanno usati. Cosa hai detto Gianni, scusa, Che avevano i manganelli ma non li hanno usati, infatti li hanno scritto, fate... Esatto, aveva il manganello e lui non l'ha usati. Si stava facendo picchiare da questa persona nuda e i passanti passavano e guardavano e basta. No, aspettate un attimino, ti state soprammodulando uno con l'altro, uno fa così di me. Uno si moduleggia sopra l'altro. A noi ci piace fare le mucchiate, tu ancora non hai capito. Ma non si comprende nulla di cosa siete dicendo. Tu che soprammoduli a Gianni, ma chi giochi sotto a Gianni? Sorete, questa è una frequenza strana. Questa è una frequenza strana, è una frequenza sexy. Avanti Luca. Saluta Luca poc'anzi, Tony, stava dicendo di quella barba gonfiabile che abbiamo trovato su via Umberto. No, Luca non ve, mi è danzura che non ve. Ci provo ad acciavallo, non è entrato. Luca! L'ho detto io della bambola gonfiabile che ne avevano messo una in via Umberto, doveva essere trattata, poi si è stufati e l'hanno impugnata sopra un muretto. È passato un collega, si è caricato da moto e non so cosa è successo. E non si è visto né la bambola né lui. Ah! E ha manco la trattata, qualcosa può dire va. Vero, to. Che schifo, usato dagli altri, babba mia. Ma aveva detto che si è comprato la camera di autoclave, che è più grossa, almeno è antica di essa, capito? Logaritate, ma come è successo davvero? Me l'hanno messa in via Umberto poco prima di svoltare per via Oriani di Dani Bulta e si firmava tutti le macchine a vinilla. E vabbè, ognuno si arrangia come può, voglio di voi. Già, c'è solo quello che troviamo in giro e quello lì, se da scherzi l'ha tirata mio collega, l'ha tirata. Tu non sai le cose che trovo in giro io, ti metti le mani in testa. Ok, avanti, signor Bacchisio. E non so dove c'è un po' di roba. Infatti. Non ho compreso più nulla. Mi sono amarino reso che riuscito a comprendere. Ma di Gianni. E tu non faccio compreso più nulla. All'arte di Zendi, a voi vi siete sovrammodulati tu e non mi tu a chi non passava. E su la base del gazzotto, pore. Tu sei peggio dell'arte, sei peggio sto modulando stai. Io no, Rosa, tu due. Cazzo ci sono io, beh. Andiamo via, andiamo, dai, dai. E vabbè, sarà così. E così sia, ho detto, ma chi? Che Gianni qui mi arriva tutto sparato. Non ho capito te, tu non riesci ad ascoltarlo, così, ma chi? Già, ma Gianni, ma chi non ti ascolta? Zero e porto zero, Da così lo ascolto. Prova a parlare, Battisio. Si è sollevato, ma chi? Ah, puttana, sta preso di te. No, non lo sento perché ho staccato. Sono con le cuffie e per non disturbare mio nipote sono sveglio, capito? Io mi sono stato utilizzando le cuffie. E c'ho l'altro apparecchio spento. Spento, acceso ma è abbassato, capito? Tutto qui. Avanti, to. No, non le sento, no. Dai, dai. È così, boh. Non lo so come sia. È una sua cosa bella, non so. Boh, boh. Non lo so, io avanti già. Sì, dai, così mi sentite bene tutti, così almeno lo lascio così che c'è sta partita. Guarda già, tu da me qui arrivi tutto sparato, anzi, è come che sei a fianco a me. Io non ne ho problemi. Tore non ha problemi. Il problema c'era solo le cose Bacchisio, perché forse Bacchisio c'ha il pazzo di fronte e l'antenna girata. Ma se rimane così già ti ascolta, dai, vediamo se c'è ancora Luca avanti. Che se non sbaglio sento anche Gio Maria poc'anzi, no? Gio Maria avanti? Anche Gio Maria è andato a sintonizzare il televisore. Tutti quanti attaccati alla TV, va bene. Metto, prendi la quanta tu, dai. Che cosa? Pigliati la tutta canta tu. No, e me li abbigli tu. Prego, signor Bacchi. Oh, raga. Guarda, io l'ho fatto automatico a casa, ho schiacciato tutto da solo va. Sia quello del soggiorno sia quello della camera letto lo stesso. Giù la mia figlia, Iden. L'abbiamo tutto già fatto. Ok, bene meda. No, l'ha già fatto Gianni, l'ha già fatto già. Se non vuoi staccare la televisione, se non sbaglio è collegata a carta con quella staffa. Ti fa una seccia da prolunga, fa una prolunga e fai prima, no? Marino! Quella di cucina, quella di cucina. Mari! Dimmi! Ho detto, ma canale 5, le emittenti Mediaset, le vedete voi? Mediaset? Sì, sì. Sta parlando Gianni, Claudio. Se non c'è buona antenna, Gianni, io non lo sento. È un casotto, E tu non senti nulla perché? No, non lo sento io, Gianni. No, perché qua a casa non si vede Mediaset, capito? Canale 5, Rete 4, Italia 1, buh. Sì, Claudio, devi risintonizzare tutto quanto. Perché hanno cambiato di nuovo? Tutte le frequenze hanno cambiato, sì. Va bene, grazie mille ragazzi, adesso lo risintonizzo, dai. Se no mia moglie non vede Maria De Filippi, cazzo, è un casino. Ok, a dopo. Sì, Claudio, io fa la ricerca automatica. Sì, adesso gliela faccio, la ricerca matematica, dai. Non lo so più, pensavo che c'era parato un fumo qualche ripetitore con questo vento. Va bene, passo e chiudo, a dopo, ciao. A Gianni salutatemi, non ci arriva qua, ciao. Ciao, cuoco. Ah, Claudio. Gianni, un bacione da Claudio, che non ti sente. E io già lo sento però. Ciao Claudio, se mi ascolti in questa posizione, guarda, caro. No, diciamo, ti sento già. Non ti sentono già. Sei piccolo, piccino, avanti, Bacchì. Sì, me la riprendo, sì. Certo che... Poi devi d'accordo però, che devi entrare, che non devi entrare, no, entra da uno sopra l'altro. Datevi il via, datevi. Come faccio io? Avete compreso? Riprenditela, Marino. Andiamo, andiamo, sto, bobo. Già, hai capito l'attore. Sempre con me, ce l'avanti già. Ciao, rilanciamo, che così almeno ci sovrapposizioniamo. Luca. Andrò già, meno ve mai. Avanti, avanti, mi ascolti sempre. Ehi, ci sono anche tutti i registri da là. Adesso mi sa che mi ascolti tutti qua. Perché mi gioca. Tore cauto intera, Tore! Ehi, ha messo che allontanato un attimino. Vabbè, dai, è così, Sto, quando ti devi allontanare, devi dire, signori, scusate, mi sto allontanando due minuti. Siamo mezz'ora e ti stiamo chiamando, io, Gianni Bacchisio, ci lascio un magliaggio e non va bene. Avanti, già. Hai compreso come ti va a vedere chi sta, Truburo? Certo, ma se ci sto fa vedere, come ti posso sopramodulare, devo. Adesso è stato modulato a Gianni, sempre il suo... Va bene, dai, andava così. Riprende, signor Bacchi. È tutto così. Riprende, signor Marino, tanto che do Luca non ti va veda. Luca sta sistemando la televisione. Sta sistemando tutto. Io ho già tutto fatto, Gianni deve fare solo con le cucine. Hai capito, Gianni? Una prunga lunga non ce l'hai. Invece stacca la televisione e colleghi dall'attacco dal soggiorno, dove ce l'hai, la grande. E la vicina in cucina, se ti va bene. No, non ne ho di più lunga. E vabbè, adesso vediamo. Secondo come va, di un apro per un più lungo. Perché se non sbaglio vuole anche... vuole la televisione particolare, se non sbaglio. Vabbè, adesso non mi ricordo, sei H, non me lo ricordo. Poi, come voleva, tu sei esperto. Le hanno passate in HD, le hanno passate, ma forse già fa anche il suo, che già fa anche il suo, non è vecchio vecchio, no, il televisore. Portalo in cucina, dove c'è in soggiorno, dove c'è il grande, e sintonizzalo lì a vedere. Io, quello che c'ho è quelle LED che davano con i punti alla S, immaginati tu da Campoviraggio. Sì, la funzionano a te, sì, catta, venna giù due di chi io. E vanno bene, si vede bene. Qual è il santo? Quello che trovate al cassone, ci sta mercato? Oh, sono i primi televisori che sono usciti, hai compreso? Sono i primi che sono usciti. Sono quelli lì. Io ce ne ho due di quelli e sono tenuti lo stesso. E allora non è il televisore? No, non è il televisore, è la linea sicuramente che però fa. E adesso vedo, là, se trovo con una prolunga, no? Mi toglie ce l'hai una prolunga lunga, ho già. Toglie c'è una prolunga di 20 metri. Beh, 20 no, ma dici sì. E che non te ne fai? Che ogni tanto invece di puntare il televisore prolungavo e faccio più l'isra. Roba veloce, no, attacchi la spina e si è arrivato. Avanti, signor Bacchisio. Voglio sgobbato come un indiano, Bacchì, come un indiano sgobbato. Sono arrivato a casa, stanco morto. Forse domani sera mi avvicino dopo pranzo in campagna tua. Ti porto una commissione così la facciamo insieme. C'ho da tagliare e saldare un pezzo. Quella graticola, quella piccolina però. che io ho un metro falso, mi ha fregato il metro come uno stupro, mi ha fregato. Boh, vabbè, ne parliamo domani, dai. Probabilmente domani mattina ci vediamo. Avanti, Tom. Salda, salda, che è meglio. Meglio saldare che aggiungere. Andave. Riprende, signor Bacchi. Oh, vabbè, va, già vengo presto, va. Vengo presto, almeno... almeno lo facciamo, veloce. Se non mi capita qualcosa domani mattina, adesso vediamo, dai, se no, ciccia. Bene, Mena, bene, Mena. Avanti, signor Gianni. Ehi, allora, io adesso vi lascio che devo portare giù il cane. Vi saluto tutti cordialmente, mi ha fatto piacere la chiacchierata. A non smidere, a non smintendere, a domani mangiare. Ok, ciao già, domani sei conciso, dai. Anche a noi ci ha fatto piacere, sa, fa una cazzata all'altra, no, si passa la mezz'oretta. Avanti, signor Bacchisio. Infatti è così, già. Ciao Gianni, stammi bene. Alle prossime, ok. Sei in casa domani, boh, andiamo a vedere. Prego, signor Marino. E così è, to. Non vengono arrivati, voi se farà sempre così. Oggi sei uscito col cane, sì, l'hai portato a fare la passeggiata al sole, sì. Oh, memorizzato, vai. Perché hanno cambiato tutte le frequenze, il mio è in automatico, è l'ultimo della Samsung, 52 pollici in HD, e quindi ho dovuto rimemorizzare tutto. Smart TV. Va bene, dai, vado a cenare, grazie dell'informazione. Ciao a tutti. Ciao, ciao, buona cena, domani, ciao. E anch'io ho fatto automatico, tutta la sosta è messo, tutta la zura, meglio gai. Avanti, Torricino. Ciao Claudio, stammi bene. Marie, bisogna fare così, bisogna fare, se no non vi ridesci. Eh sì, non c'è nulla da fare. Avanti, signor Bacchisio. Io vado a antenne, mi Bacchi, non agio roba di biassetta, certo che ti sento, un abbraccio grande, grazie dei saluti, proseguite. Dopo forte sei Claudio, ciao. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, e così è Bacchi, non è andato in vanno. E oggi sei in ufficio, sei andato Bacchi, sì, io ero incasinato, non ho fatto nulla, va. Era incasinato anche oggi. Non sono passato, appunto non ti ho neanche chiamato e devo fare anche due commissioni, neanche quelle ho fatto, figurati. E va bene, dai, vediamo domani a fare, almeno qualcuno la dobbiamo fare domani. Avanti, to. Sì, bisogna fare così, bisogna fare, purtroppo. Allora, signor Bacchi, bisogna salire in ufficio. È il tempo, è il periodo, Bacchi, è il periodo, è il tempo, noi abbiamo quasi... quasi, no quasi, quasi una quarantina di persone malate ci abbiamo. C'è il foglio appeso al coso e tutto è rosso, tutto è rosso, tutto è malattia. Influenza, che è malato, che è male da capo, che è guasto, insomma, tutti malati. Avanti, do. Non lo sai che roba di io. È il periodo adesso, è per quello, e tutti si sono innamorati. Ma mi dai il periodo della mandolina, Bulu? Bacchisio, quello turbino che non c'è, che hanno cambiato, non è malato, è sospeso, già hai capito. Per il momento è sospeso un mese, qua un mese. Dopo farà nuovamente le analisi, se le analisi sono buone lo fanno entrare, se no continua a essere sospeso, senza cash, senza soldi. Anche del mandrone, ne ho preso, guarda che arrivava ogni giorno, già lo sai come arrivava ogni giorno in azienda, figurati. Anche diabetico, figurati. Si impigliava uno alla mazzana e uno alla sera, figurati. Per il momento è sospeso un mese, non lui, sono in tre sospesi, per il momento. Poi si vedrà, avanti do. È così. Peggio Baedo, lo sai che è diabetico. Più pizzi e più tirati la glicemia, quando la vede che la glicemia arrivi a 400 vede che cribba. E vedrà che ha finito per sempre. Verranno detto già, un bel di voci verranno detto. Anche al bar non gliene volevano dare l'altro giorno. Beh, io non so come ti fazzi. E invece sei stato bloccato per un mese. Io ho beccato l'altro giorno, io ero sul camion e parlavo l'autista. E devo andare nuovamente a fare la sera, proprio intuiso. Ne arrivava ogni giorno ubriaco, non riusciva manco a camminare, figurati. neanche camminare, perché l'altro tu ricordi come si chiama? Antonello Manca, lo stesso, come è stato sospeso, è stato ricoverato più di 10 giorni in ospedale, è stato sospeso un altro mese, adesso è entrato e sembra più tranquillo, sembra. E ancora non l'hanno compreso, la deve venire là, la roba da via, la deve venire là, che se no è sempre la stessa storia, Ah va, voglio vedere che hanno stato in un mese senza bigliettina, voglio vedere che ce la comprendono. Peggio per loro. Il fatto è uno può, come esce fuori dal servizio, può anche bere un bicchiere di birra, ma il fatto è loro era dalle 4:30 a Filoverro, Sambuca e compagni, sia uno sia l'altro. Fino all'Antonello arrivava già ubriaco alle 4. Io avevo alle 4, giù era già ubriaco, figurati. Ma sono ubriaco, era già ubriaco, questo. È Albino, tranquillo. Cosa ha detto, scusa? Ho detto Albino, come sta? Bene. Non ho capito bene, Albino mi hai detto? Albino! Peppino, chi Peppino? Albino, ti sta dicendo, Albino! Se sta bene! Albino sono apparecchio, sta a vedere, Albino l'ho messo al palco, poi ha fatto una visita, se non sbaglio, l'ho messo in malattia perché c'era qualche problema al cuore, Albino. Sono apparecchio, sta a vederlo già. Lo conosci? Un attimino, dai, che a me mi sociamenti. E Mari, ci sentiamo domani se tutto andrà bene, ok. Ciao Bacchisio, ciao Gianni, statemi bene. E buona cena a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ci sentiamo a tutti. Ciao, ciao a tutti. Oh Mari. Dimmi, Clau. Mi sono dimenticato, ricordati quella roba che quando ci siamo visti al caffè l'altra volta. Qual è che ti sto pensando, non preoccuparti, se non so se ce la faccio sabato, già ti faccio una bassa prima, vai tranquillo, già ti sto pensando, peccato non sei mio tipo, sono guai, vai tranquillo Claudio. Sei un grande, ascolta, poi vado a cenare perché poi c'è la partita, ma Cipria sempre sta lavorando. Chi Cipria? Cipria lo chiamo io, lo sai, Roberto Giano si chiama Cipria. Berto. Berto, Roberto si chiama. Cipria, noto Cipria. Cuocuomane. Io Roberto. Sì, è tranquillo. Per il momento è tranquillo. Oh Claudio, per il momento. Auguro per lui. Per la luce vuole perdere anche quello. Castellan di Farma. Già aveva un posto loro, ti danno il cutovore, che era sempre in Cipriato. Va bene, dai, saluto di nuovo Gianni. Ci sentiamo. A frappè ragazzi, ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao Tom, ben sentito, domani se concilio, avanti Bacchi. Bacchi, sei caduto? Bacchi, Bacchisio, pressione Bacchisio. Ok, ciao Bacchi, se mi stai ascoltando, domani se concilio, dai. Vabbè, chiudo anch'io, ciao Gianni, ciao Luca, ciao Claudio, ciao a tutti gli ascoltoni, QRT per me, dai, ciao a tutti. Ciao, ciao Tore, buonanotte. Ciao Gianni, ciao. Vivi Bacchi. Ok, me ne sono accorto, Bacchia, domani se conciderà. Ciao, ciao, domani, ciao. Sì, ciao a tutti, dai, buonanotte. Ciao Claudio a tutti, ciao. Ciao Luca, ciao, domani, ciao. Ciao Marino, ciao.